Vorrei improvvisamente sparire da questa serata stanca. Picchiano voci odiose, si piantano al mio cervello. La testa esplode come colpita da un martello. Fingo di essere come voi, fingo di essere felice. Ogni secondo che passa l'atmosfera si appesantisce. Vorrei provare un'alternativa al silenzio eterno. Sapevo che in partenza non era una festa ma un inferno. Queste occasioni non mi sono mai piaciute. Fingo di ridere alle vostre inutili battute. La cosa più difficile essere normale, la cosa più importante essere normale, e la cosa più disgustosa essere normale, e la cosa più finita essere normale.